Balotelli, segna Balotelli, Balotelli, segna Balotelli. Grazie della convocazione, mister. Mister Ginta, finalmente dopo 2 anni di tribuna mi ha convocato, volevo ringraziarla. Non stiamo a dire che sento tutto il giorno Radio 24, la lascio accesa anche la notte, tanto sono sola. Tutti convocati di Carlo Genta. Mi candido per guidare il suo motorhome quando lei realizzerà il sogno di correre all'isola di Man. Grazie a tutti. Franco Piantarini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, in attesa di andare magari l'anno prossimo all'isola di Man, ormai è tardi, mi sa. Però se c'è qualcuno che mi dà una moto da distruggere io vado subito. Andrea Agnelli parla di programmi futuri, di certezze e di carezze. Dice il presidente della Juventus che Antonio Conte aveva solo bisogno di una carezza per convincersi a restare. Lui risponde, Antonio Conte, era una festa vicino a Bari, non ricordo esattamente il paese, risponde con la faccia scura come un temporale, giallo alla Juventus, altro che carezze. 800240024, vi aspetto qui. Le riserve sul futuro di Conte sono sciolte? Da parte mia sono completamente sciolte, non ho mai avuto riserve. Da parte di Conte? Secondo me anche da parte di Conte, lui aveva bisogno di avere 2 stagioni estremamente difficili, stressanti. Credo che avesse anche bisogno di una carezza e di una conferma che il programma va avanti. E quello che gli ho detto è che può stare tranquillo, perché finché ci sono io, a me la fame di vittoria non passerà mai. A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei mia, e stringerò il cuscino fra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra apparirà. Antonio è venuto a trovarmi a casa, quindi sempre a casa, lo stesso divano, e abbiamo discusso di nuovo un paio d'ore. Antonio conosce le aspettative del mondo della Juventus e sa perfettamente che vincere sembra di nuovo normale, ma non è così. E quindi abbiamo discusso di quali sono le sue aspettative e lui voleva valutare con me quelle che erano alcune esigenze per poter continuare questo percorso. Ma non vorrei che tu a mezzanotte 3 stai già pensando a un altro uomo. Quello che è, e che l'ho infrancato, è che l'ambizione della società, mia personale e quindi sua, è quella di vincere. Quindi il giorno dopo, quindi dopo giovedì che l'ho incontrato io, c'è stato subito un incontro con Marotta, Paratic e Nedved, quindi già in quella circostanza lì c'è stato un chiarimento su quello che, su quelle che devono essere le strategie per il mercato della Juventus. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno e dal pugno chiuso una carezza nascerà. Ragazzi, che succede? 800240024, perché insomma Antonio Conte è solo una tessera di un domino di allenatori che quest'estate ci terrà compagnia, ci farà divertire, come al solito Capello, che mai si fa, mai una volta si è fatti i fatti suoi, dice che la Juve vincerà anche il prossimo scudetto, dice che in quest'Italia non torno, però se volete poi vi ripesco il file in cui diceva mai andrò alla Juventus, ormai è vecchio. E poi è stato ufficialmente esonerato anche Roberto Mancini con un comunicato che non ha niente di così di dolce, perché si dice Mancini esonerato perché non ha centrato neanche un risultato, quindi via, ciao. Andrà al Monaco dei russi e guadagnerà di nuovo un sacco di soldi, che uomo fortunato. Voglio tornare però da Antonio Conte e su Antonio Conte con Antonio Di Rosa, ex direttore della Gazzetta dello Sport, editorialista e coautore con Conte di un libro che si intitola Testa, Cuore e Gambe, appena uscito. Ciao direttore. Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori. Perdonami la domanda diretta, cosa vuole Conte? Ma Conte vuole una squadra in grado di affrontare sfide più importanti, perché come abbiamo visto dai quarti di Champions League contro il Bayern Monaco, non puoi pensare, sì, nel calcio può succedere tutto, ma non puoi pensare di battere una squadra così forte come il Bayern Monaco, o anche ci metterei il Real Madrid, il Borussia Dortmund, il Barcellona, che comunque sono squadre molto impegnative, con questi uomini che hanno già fatto un miracolo a vincere sì. due scudetti in due anni, grazie all'organizzazione di gioco e alla strategia, alle strategie messe in atto da Conte. Quindi ci vuole maggiore qualità. Pensate che insomma gli esterni del Bayern erano Ribéry e Robben, quelli della Juventus Lichtsteiner e Asamoah, per carità, ottimi giocatori, ma niente a che vedere con i due del Bayern. Sì, non c'è dubbio, poi la Juventus è una squadra comunque da ringiovanire, da rinfrescare, è una squadra che anche dal punto di vista anagrafico non è giovanissima. No, non è neanche vecchissima, nel senso che ci sono... Beh, ma nei suoi uomini cardine, perdonami direttore, Buffon, Pirlo, Barzagli, certo. In questo momento, insomma, non sono ragazzini. No, assolutamente no. Quindi intanto c'è Pogba, che credo il prossimo anno sarà un titolare fisso sì. del centrocampo. E poi bisogna trovare giovani talenti che costano meno e che quindi non svuotano le casse della società e fai un investimento anche sul futuro. Direttore, ti chiedo un istante di pazienza che ho subito il traffico in linea e poi voglio chiederti se da questo libro emerge che non ho ancora letto, ti confesso, emerge l'immagine del Conte che penso io, cioè un Conte integralista. Tutti convocati. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno e dal pugno chiuso una carezza. Dice Andrea Agnelli che aveva solo bisogno di una carezza Antonio Conte. Io non lo credo. Antonio Di Rosa, ex direttore della Gazzetta dello Sport e autore di questo Testa, Cuore e Gambe, ti ho chiesto prima, direttore, da questo libro emerge l'idea che mi tengo di un Conte integralista, di un Conte allenatore sul modello di Velasco, di Sacchi, di Mourinho, di quelli che hanno bisogno comunque di creare una setta di giocatori disposti a tutto per lui? Beh, guarda, integralista è secondo me un termine negativo, non mi pare che sia il termine giusto per Conte. Conte lo insegna la storia della sua vita raccontata nel libro, sì. cioè l'infanzia, l'educazione molto rigorosa dei genitori, di tutte le esperienze che ha fatto quando era ragazzo a Lecce, e queste le ha trasferite col passare degli anni anche in quello che oggi è il suo ruolo, quello di allenatore. C'è un uomo molto appassionato, molto rigoroso, soprattutto con se stesso e poi con gli altri, molto scrupoloso, e poi studia tantissimo, cioè tutti gli schemi della Juve su palle inattive sono studiati durante gli allenamenti, lui è uno che li prepara, che si inventa delle cose nuove, non lascia nulla al caso. Cioè il suo calcio è un calcio che viene da approfondimenti e soprattutto dai vecchi maestri. Trapattoni, Lippi, Ancelotti, lui ha avuto Sacchi in nazionale soprattutto, sì. cioè lui ha avuto dei grandi maestri e da tutti questi ha saputo tirar fuori le parti migliori e poi ci ha messo del suo per inventarsi un suo gioco, un suo modo di giocare. Sì, io penso che la prima volta che lo vidi da giocatore era ragazzino a San Siro con il Lecce contro il Milan e giocava con il numero 10, trequartista, e portava una ginocchiera più grande di lui perché era reduce da un gravissimo infortunio al ginocchio. E si parla di forse di preistoria, insomma. Ma sai, era un guerriero anche come giocatore, Sì, non c'è dubbio. È uno che dava tutto, non aveva grandissima qualità tecnica, però era uno che correva 90 minuti, che si inseriva al momento giusto per segnare, e che difendeva e riprendeva, rilanciava l'azione. Insomma, si vedono questi tratti anche come allenatore. Sì. 800 24 00 24 per intervenire, per dire la vostra, perché siete sempre tutti convocati e io voglio sentire la vostra voce. Un'ultima cosa, direttore, ed è un'altra domanda diretta per chiudere, come quella con cui ho iniziato. La Juventus ha dato a Conte la prima grande possibilità, lo ha protetto all'inizio perché il popolo bianconero era d'accordo, ma non tutta l'opinione pubblica era così convinta della scelta di Conte. Lui ha preso questa squadra, ha spremuto fino in fondo quello che doveva spremere, normale che voglia vincere di più. E la domanda è, resterà la Juve? Sì, resterà la Juve. Io penso che Conte è destinato a rimanere ancora per un po' di anni alla Juve, poi farà la sua esperienza all'estero, a meno che non ci sia una rottura improvvisa, non la vedo. E anche l'intervista di Andrea Agnelli rilasciata ieri, in pratica va nella direzione giusta, perché la società metterà a disposizione di Conte quello che può. Sarebbe sbagliato pensare a giocatori come Ibrahimovic, costano troppo, sì, sono d'accordo. È molto individualista, non fa parte di quella mentalità che vuole Conte del gioco di squadra, dove tutti contano, dove tutti fanno qualcosa di importante per la squadra per andare poi a segnare. Direttore, ti ringrazio. Grazie a voi. Grazie Antonio Di Rosa, dunque coautore con Antonio Conte di questo libro Testa, Cuore e Gambe. Adesso vediamo se le previsioni saranno azzeccate, se Conte resterà alla Juventus. Le parole di Andrea Agnelli sono state riprese con la smorfia che vi ho detto da Conte, però questa è, insomma, sarà l'estate di cui parleremo tra poco, del domino degli allenatori. Allora vi chiederò, ma dove vanno questi secondo voi? Però prima gli ascoltatori, 800 24 00 24. Siamo in un paese strano in cui non si può nemmeno fare il tifo per Valentino Rossi, figuratevi, un fenomeno dello sport, perché c'è il solito che mi manda messaggi. Invece di dire stupidaggini su Conte, pensi al suo amico evasore Valentino Rossi. Primo, non è mio amico, è semplicemente un grande pilota. Secondo, io le tasse le pago, come spero le paghi chi scrive, come le pagano tutti quelli per bene. Io valuto i personaggi dello sport sul campo, sulla pista, sul parquet, in questo modo, non per i loro comportamenti. Se non paga le tasse, venga multato, venga spennato, venga incarcerato. Paolo, provincia di Pescara. Buongiorno, senti, non sono d'accordo con il signor Di Rosa. Su cosa? Che ha scritto il libro. Sul fatto che la Juve comunque non ha una rosa adeguata, diciamo, all'Europa, nel senso che sicuramente qualche piccolissimo innesto andrebbe fatto, ma basta valutare che siamo usciti dello stesso girone dove è uscito il Paris Saint-Germain, che ha speso una barca di soldi per fare bene, o comunque il Real Madrid, che sono tanti anni tra Mourinho e vari giocatori di qualità che ha preso e comunque non riesce a vincere in Europa. Quindi sì, penso che vincere in Europa non serva solo qualche grande posso nome. Posso fare un'obiezione a lei, però sì, nel calcio secondo me i sillogismi non contano, cioè siamo usciti quando sono usciti loro, noi ne abbiamo presi 3, loro ne hanno presi 7. No. Sì, era una valutazione, diciamo, sì, era un dato però, fatto. Alla Juventus secondo me mancano tre grandi giocatori per essere al livello del Bayern, che oggi è la più forte squadra d'Europa, del Real Madrid, del Barcellona, che si ricostruirà. Il Borussia Dortmund insegna come non è necessario spendere una barca di soldi, ma proseguire in un progetto e spenderli bene. Ma che vuole arrivare, anche perché i giocatori della Juve dimostrano sempre tanto cuore in ogni partita, e quindi penso che questo valga anche, diciamo. Sicuramente qualche innesto di qualche nome lì davanti sicuramente non farà male. Vediamo. Intanto Andrea Agnelli ha detto Ibrahimovic assolutamente no, ma questo in buona parte si sapeva, e io, insomma, metterei abbastanza mano sul fuoco sul fatto che Ibrahimovic non arriverà alla Juventus. È già partita la musica. Il domino degli allenatori. Sono tantissimi quelli di grandi squadre che sono incerti, in bilico o licenziati in cerca di panchine. Dove li mettiamo? I don't know why, I don't know how. Thought I loved you, but I'm not sure now. Seen you look at strangers too many times. Love you want is a lot, a different kind. How will they watch them all fall down? How will they domino dancing? Veramente la sticella si alza sempre in maniera vertiginosa. È giusto, ecco, che ci si sieda con la società in maniera molto, molto serena. A me chiedono la Champions, penso che credano al presidente, però bisogna anche essere molto realisti e capire dove siamo e dove possiamo andare. Ecco, vede, è questo, è perché io devo riflettere su me stesso. Ecco, lei ha centrato perché un allenatore come me, che di solito, grazie a Dio, sono contento della carriera che ho fatto 12 anni quasi ininterrottamente, sempre a cercare di tirare all'osso tutti i giocatori, deve capire se ha ancora questi stimoli, se rimane con lo stesso gruppo, nello stesso posto. What about your future? There's speculation, of course. Is finishing second in the Premier League? Rubbish. What's rubbish? This speculation. Will you still be here then next season? Yes. You will be still the manager of Manchester City next season? If I say that is rubbish, it's rubbish. Speculation are rubbish. Mi relación con el presidente y con José Ángel y con los otros directivos, de un modo general, mi relación con el club es una muy buena relación y eso permite que nos podamos sentar, analizar las cosas con tranquilidad, decidir lo que es mejor para el Madrid, lo que es mejor para mí. Prima si parlava dell'esonero, le ultime settimane, del fatto che io avessi già deciso di andare via. Credo che in questo momento, ripeto, parlare del mio futuro non ha senso, non voglio parlarne, vi chiedo cortesemente di aspettare 10 giorni, tanto ormai manca 10 giorni, e poi saprete. Allora, li avete sentiti? Conte, Mazzarri, Mancini, che sabato parlava di speculation and rubbish, speculazioni e spazzatura circa le sue voci di un esonero dal City, sabato scorso, oggi è martedì. Mourinho, Allegri, dove vanno questi? Maurizio, Genova. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao. Buongiorno. E, che dire, l'hai visto giocare in Manchester quest'anno? Come? Manchester City, hai visto, hai avuto opportunità di vederli giocare? Sì. Ma ti piaceva Manchester City? No. Domanda, anche a me, no. Infatti è una squadra che segna poco, fa sempre una grande difficoltà, è macchinoso a impostare il gioco, che noia. Ma questo dove vuole andare? Io guardavo Mancini, perché l'ho anche arbitrato diverse volte, no? Facevo la partitella del giovedì della Sampdoria con Boscov, con Eriksson, prima ancora l'ho fatto anche con Spalletti, eccetera, però e Roberto lo conosco, è un ambizioso, è uno che come peso specifico è molto prevalutato, va diviso. Sì, è anche, perché è anche tanto i soldi, Maurizio, sì, però è anche un vincente come carattere. Io ti dico la verità, io sono un grande estimatore di Mourinho, non l'ho mai nascosto, perché mi piace il suo modo di gestire il gruppo, mi piace il suo modo di comunicare, mi piace la sua intelligenza. Non ho mai visto squadre di Mourinho, anche di grande qualità, anche di qualità superiore a quelle di Mancini, giocare un calcio spettacolare in maniera clamorosa. Però Mancini è uno che vince, e vince uno solo, cioè non state a fare il solito discorso, tutti sembrava vincere con tutti quei giocatori. No, perché le squadre che hanno grandi giocatori sono X, non molte, ma 5, 6, 7. Alla fine vince uno. Ci fermiamo per la borsa, poi torniamo 800 24 00 24. Avremo anche un ospite molto importante, di cui abbiamo parlato ieri, con cui ieri abbiamo chiuso il programma e che aspetto con ansia. Tutti convocati. Voi sapete dove ero un anno fa, che io credevo che non sarei neanche riuscito a sopravvivere. Adesso sono campione d'Italia, io non lo so, io non voglio sembrare melodrammatico, però lo dico a tutte le persone che mai si troveranno a essere ammalate di cancro o hanno il cancro adesso. Non perdete mai la speranza, perché il sole può tornare a splendere, ragazzi, perché io l'ho visto e io ce l'ho fatta, e non sono nessuno, sono una persona normale. Splende un grande sole su di me. That's the sound of sunshine coming down.

la paura di buttarsi con la testa sotto la sabbia, diciamo, davanti a dei problemi grandi e anche a delle difficoltà come quella che è stata l'ultima partita da giocare, perché diciamo che ho trovato la forza per affrontare i problemi, che è una cosa che mi riempie veramente di soddisfazione. Grazie Jack, grazie di tutto, non solo di essere stato con noi. Io vi ringrazio per avermi invitato e spero che ci siano altre occasioni. Ci saranno di sicuro, mio caro. Ciao campione d'Italia, ciao. Ciao, un abbraccio, grazie. Ciao. Lorenzo Giovanotti. Yeah, my friend. Mi sveglio la mattina e do uno sguardo in giro. Diceva che era brutto, invece il sole è d'oro. C'è chi mi scrive, Beppe scrive: altro che macchina, pensare che io ti avrei tagliato la barba di notte se non avessi chiamato Jack. Ok Beppe, ti aspetto, ho bisogno di un barbiere. Andrea da Milano. Ciao Carlo, grazie per avermi convocato. Ciao Andrea, grazie a te. Senti Carlo, io ho i brividi perché aver sentito quel giocatore di pallavolo, perdona l'ignoranza, che io non conoscevo prima, però mi ha ricordato tantissimo quanto ha fatto il teatro per mia madre dopo aver avuto due tumori, e quindi sinceramente ho voluto chiamare solo per questo. Veramente mi sento di dirlo, c'è delle persone normali che fanno qualcosa di straordinario e di eccezionale, è un messaggio da portare a tutti. Sì, e lui l'ha portato su un campo ed è il modo più bello di tutti, secondo me. Sì, cioè, serio, da appassionato, da innamorato dello sport, ripeto, che spesso è un mondo di carogne, di tagliagola, ma lo sport e il campo riescono a trasmettere dei messaggi, a mandare delle sensazioni che niente riesce a tradurre. Enrico, Roma. Sì, ciao Carlo. Ciao. Certo che parlare di allenatore di calcio dopo questa storia. No, ma perché? Perché? Cioè, c'è un leggero stacco. Ma sai, leggero stacco, questa è una piazza virtuale, no? Immagino una piazza virtuale in cui ognuno parla di ciò che vuole, ma è bello che sia così invece. Ma sì, allora seguo il tuo consiglio e volevo fare due ragionamenti. Falli. Uno su Allegri e uno su Mancini. Sì. Quello di Allegri, io sono tifoso milanista e sono fermamente convinto che questo terzo anno di Allegri sia nettamente la sua miglior stagione al Milan. E l'ho già detto io, diverse esatto, volte. Secondo me, io guarda, ti anticipo perché l'ho detto ben prima, lo pensavo prima già di me. Prima che arrivasse, esatto, però non ho mai avuto modo di dirlo pubblicamente. Va bene. Visto i numerosi detrattori di Allegri che ci sono. Sì. Per quanto riguarda invece Mancini, riallacciandomi al discorso dell'ascoltatore di prima, anche secondo me, come tu dici, ha la mentalità vincente, però se poi andiamo a vedere nel dettaglio, lui ha vinto con l'Inter giocando sulle macerie del calcio italiano dopo Moggioboli. Mm. È andato al Manchester City, ha vinto l'FA Cup, però ne ha persa anche una e ha vinto lo scudetto all'ultima giornata, al 93esimo. Sì. Ma l'ha vinto. Con la squadra nettamente più forte d'Inghilterra. Sai, per vincere ci vogliono le squadre forti. Le squadre forti in Inghilterra sono quelle che conosci, sono più che in Spagna. Comunque, no, è un campionato molto difficile e poi alla fine ha vinto. All'ultimo istante, all'ultimo secondo. Allora, ha vinto. Io poi alla fine guardi i risultati. Mancini, secondo me, comunque... è un allenatore, è un personaggio vincente, è un vincente Roberto Mancini. Poi può piacere o no, a me non è neanche tanto simpatico per dire la verità, però è un vincente, quindi questi sono i risultati. Poi macerie o non macerie, possiamo fare e allargare questo discorso all'infinito, però intanto all'Inter ha vinto, al Manchester City ha vinto, quest'anno non ha vinto niente, gli hanno detto: signor Mancini, i motivi sono questi, tu non hai vinto un tubo di niente, vai. Tutti convocati. Roberto Reggio Emilia, 800 24 00 24, numero verde. Buongiorno, chiedevo un suo commento sulla pallacanestro reggiana, sulla partita di ieri sera, su dove potrà arrivare e se riuscirà a trattenere poi i suoi talenti. Grazie. Questo dopo, Roberto, questo se ne parla dopo. Intanto Reggio Emilia sta facendo sta provando a fare un'impresa incredibile, ha fatto una stagione straordinaria, gioca una pallacanestro molto intensa, gioca una pallacanestro molto italiana, anche se gli interpreti sono stranieri, e se riuscirà a trattenere i giocatori non lo so, se riuscirà a completare l'impresa non lo so, ha avuto la fortuna di trovare Roma che dopo essere stata secondo me nel rapporto qualità-prezzo la miglior squadra, ovviamente insieme a Varese, del nostro campionato, più di Sassari, perché Sassari vale a maggiore qualità, ebbene ha avuto la fortuna di trovare una Roma decimata. Ora abbiamo un ospite importante come Massimo Mauro, che saluto e ringrazio. Ciao. Ciao. Non mi pare che ci conosciamo, no? Ci siamo sentiti qualche volta, Massimo. A me piace la tua trasmissione, piace come lo fai, e mi chiamano sempre per partecipare, adesso chiamo io. E io perché ti ringrazio. La verità è che ho chiamato io. Sì, hai chiamato tu e per questo sì. Ti ringrazio ancora di più. No, ma non mi devi ringraziare. No, mi aveva colpito il giocatore di pallavolo. Jack Sintini. È o non è la storia più bella dello sport italiano quest'anno? Sì. Ora senza essere troppo melodrammatici, perché lui stesso non lo vuole, senza fare della retorica che a me non piace. No, però mi fa piacere quando un ragazzo così racconta, no? Perché a prescindere che è uno sportivo, però può essere importante per tutte le persone che devono combattere, no? E quindi mi sembrava giusto sottolineare. Sì, no? poi come abbiamo parlato con Gianluca Vialli altre volte, voi due state facendo anche cose importanti in questo settore. Sì, ma ci divertiamo anche. Sì, noi vi divertite anche. Raccogliamo fondi per la ricerca sulla SLA, ma siamo stati furbi in questo caso, perché abbiamo coniugato le nostre passioni, che sono il golf, la musica, no, per fare eventi, ed accogliamo fondi che destiniamo alla ricerca sulla SLA. Beh, non mi sembra un peccato divertirsi facendo un'opera. No, ho detto furbi apposta, no, perché anziché spendere il nostro tempo libero in cazzate, invece abbiamo deciso di fare qualcosa così. E devo dire che 10 anni che con un po' di impegno e tanto divertimento abbiamo raccolto quasi 2.300.000 euro, sì, però, destinati interamente alla ricerca sulla zona. Però vedi che il campo, come dicevo prima, Sintini manda dei messaggi che nessun altro ambiente, il campo non solo da calcio, il campo inteso come sport, manda dei messaggi che nessun altro sa mandare. Beh sì, perché la competizione è tutta positiva, i 90 minuti oppure i 60, insomma, di tutti gli sport, cioè l'evento, e non c'è niente di negativo, esatto, no? La competizione tra gli atleti, che siano donne, uomini, è tutta stupenda, no? È tutto un po' il contorno che a volte lascia un po' a desiderare, perciò è importante che gli atleti raccontino quello che gli capita nella vita. Senti, facciamo che ci sentiamo, previo appuntamento ti chiamiamo noi, possiamo? Un giorno? No, ma va bene così. No. Ho sentito anche su Mancini la tua onestà intellettuale rispetto all'antipatia, cioè, ti dico, a me simpatico non è, non mi era neanche simpatico da giocatore, però ho sempre detto un giocatore straordinario, non mi è simpatico da allenatore, cioè non mi è simpatico lui, però dico è vincente. Sì, no, poi un minimo di riconoscenza in un ambiente che ha un'educazione sportiva, una cultura sportiva alta come in Inghilterra, non c'è manco lì, perché il Manchester era 40 anni che non vinceva lo scudetto, eppure è bastato un anno così per mandarlo via. Sì, senza neanche tompi ringraziamenti, gli hanno detto ciao perché non hai vinto. No, e poi nonostante i 3 anni di contratto ancora, 6 milioni netti all'anno, quindi vuol dire che anche dal punto di vista, insomma, costo-beneficio non gliene frega niente. Ecco, questa è un'altra azione diseducativa. Ma cosa vuoi che gliene frega a questi? Cosa importa a questi? Ricchi, però io non credo che a un ricco gli piace buttare via i soldi. No, però questi sono abituati i soldi a sbatterteli in faccia, se tu lo sai, no? Sono abituati a sbatterteli in faccia, a dire quanto costa quello, 100, 30, 200, non mi rompere i coglioni. Sono così. Ma non è male dirlo, però, no? Che sono... Bisogna dirlo. Ricchi un po' scemi, no? Sì, ma bisogna dirlo. Ricchi un po' cafoni. Facciamo così. Sì, un po' cafoni, giusto. Massimo, ti ringrazio moltissimo. No, grazie a te e buon lavoro. Grazie a Massimo Mauro. Ciao. Grazie. Giampaolo, Reggio Emilia. Modena. Modena, è che sì, mi sbagliano tutte le scritte. Salve, ciao. Ciao. Senti, io ho un'altra domanda oltre a quella dei tifosi, degli striscioni per Moratti e la dirigenza. Sì. E questa, come mai noi schieriamo il grande Tommasino Rocchi in attacco, che praticamente gli unici che mette in difficoltà sono i telecronisti perché lo scambiano per Cambiasso. E invece abbiamo destro alla Roma e Balotelli al Milan, che erano i nostri fiori all'occhiello, no? Come abbiamo fatto ad arrivare in questa situazione all'ultima giornata? Secondo te? È una domanda, io faccio le domande, eh. E io le rigiro a te perché non ho una risposta. Ce l'avessi in tasca, questa è bella, però, altro che maglia rossa. No, la maglia rossa. Però erano domande pertinenti, però, io ti dico, erano tutte domande pertinenti. Poi ogni squadra ha, compresi i campioni d'Italia, compreso il Milan, eccetera eccetera, ha giocatori venduti e poi ricomprati e poi ripresi. Beh, la Juventus con Giovinco non è difficile da, insomma, da focalizzare. È vero il fatto che l'Inter aveva questi giocatori che hanno poi preso per motivi, beh, Balotelli neanche tanto misteriosi, lì si parla di, insomma, di discussioni, di litigi, di impossibilità di coesistere e di denaro. Destro ha fatto un giro molto strano e adesso è finito alla Roma. Livaia è stato ceduto, che non so quanto valga Livaia, non ne ho idea perché è troppo presto per giudicarlo. È finito all'Atalanta in cambio di Schelotto e si è preso Rocchi per 800 da quando si è preso a fine stagione, e sto parlando di milioni di euro. Ciao ragazzi, sentiamo domani. Franco Piantani, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, convocati domani alle 2, mi raccomando. Beh, se uno mantiene sempre lo stesso profilo, il famoso passo da montagna, non deve né correre né andare piano, sempre lo stesso passo. Tutti convocati.